Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto siamo in diretta sul radio di transizione di base e questo è un appuntamento speciale che facciamo omaggio per il programma che come collettivo Altranonez abbiamo su questo nuovo progetto radio che è partito da pochissimo. Quindi vi dico per cominciare che il microfono non serve per sentire meglio, ma serve per la radio. Però questa sera siamo qui per presentare un libro che si chiama I padrini del ponte, affari di mafia sullo stretto di Messina, che come potete ben capire è un libro che parla degli interessi che hanno la mafia e la 'ndrangheta sulla realizzazione di quest'opera. Questo libro è stato scritto da Antonio Mazzeo, che è qui al mio fianco, e con la preparazione di Umberto Santino, che è del centro studi di Quirino Pastato. Noi stasera parleremo degli interessi della mafia su questo libro e faremo anche un discorso più ampio insieme a Peppe Marra, che è un esponente della rete Lo Ponte di Reggio. Perché parlare appunto di questo ponte in questo periodo? Perché il governo attuale ha affermato che realizzerà questo ponte in tempi rapidi, in tempi brevi. Infatti si è parlato della posa della prima pietra nel 23 dicembre e in corrispondenza di questa data c'è stata una grande manifestazione nazionale qui a San Giovanni, a quale anche noi abbiamo partecipato, e dove è doveroso ricordare per solito anche un compagno Franco Mistico, morto in seguito a un malore sul palco a fine corteo e morto per i ritardi che ci sono stati nei soccorsi. Infatti poi vi spiegherà meglio chi ha visto la scena, non so perché era presente, per la scena non eravamo già andati via e la polizia è stata più di mezz'ora ad aspettare prima di soccorrere la persona. Ricordo poi anche un'altra grande manifestazione alla quale da Lamezia abbiamo partecipato, che è stata nel 2006 a gennaio a Messina, anche lì c'è tantissima gente, arrivarono persino i notabili dalla Val di Susa, c'è questo gemellaggio con i notabili. E niente, dopo questa premessa io vi lascio subito con gli ospiti, vi vedo presentati, passo la parola per Peppe Marra della rete Lo Ponte. Un saluto a tutte e tutti, ringrazio dell'invito, anche perché è un piacere presentare questo libro di Antonio Mazzeo, che è un autore, un giornalista, le cui inchieste abbiamo sempre usato e abusato, perché è una fonte interessantissima di informazioni rispetto al ponte, rispetto a tutto quello che sta dietro il ponte, ma anche rispetto a tanti altri argomenti. Prima Santino ha citato due iniziative, di quelle che è un percorso lungo che come movimento No Ponte abbiamo fatto negli ultimi anni. Un movimento che è cresciuto, che ha prodotto e ha fatto tantissimo in questi territori e ha raccontato e ha espresso le assurdità di questo progetto del Ponte sullo Stretto. Un progetto che non ha nessuna, ragione di essere se non quello di arricchire i padrini del ponte, appunto, che non sono soltanto mafie, ma sono anche i loro compari, quindi le varie lobby del cemento, l'Impregilo, in primis, che è quella che si è aggiudicato l'appalto, ma tutta una serie di cordate, amiche, nemiche, legate ai vari rapporti e la politica, che sicuramente non è fuori da questo tipo di ragionamento. Ripeto, un'opera inutile, un'opera che non ha nessuna logica dal punto di vista dei trasporti. Quella dell'emergenza dell'attraversamento dello stretto è un'emergenza assolutamente creata, perché se solamente si razionalizzasse il sistema dei trasporti, i movimenti territoriali di solito sono etichettati come i movimenti del no, ignorando per esempio che sull'alternativa al ponte, o meglio sulla necessità di non realizzare il ponte, c'è tutta una bibliografia, studi fatti dall'Università di Reggio ad esempio, ma da tanti ingegneri dei trasporti, per dimostrare che l'attraversamento stabile dello stretto è una non è una, assolutamente un'emergenza. Noi viviamo in Italia, c'è un sistema di trasporti allucinante che, ad esempio, a fronte di tutte le normative europee che impongono la diminuzione del trasporto sul gommato, in Italia ancora si investe sul gommato e si investe sul trasporto dei camion. Quindi, se venissero adottate queste norme, se venisse razionalizzato il sistema dei trasporti incentivando l'uso dei porti di Livorno, di Salerno, di Gioia Tauro stesso, e quindi si togliesse tutti i camion dallo stretto, se si venisse finalmente realizzata una metropolitana dello permettesse ai pendolari di attraversare facilmente, di andare da Lille e da Reggio a Messina e viceversa, se si realizzasse tutte queste opere, il problema dell'attraversamento dello stretto non ci sarebbe. Certo, tutte queste opere rispetto agli ingenti capitali che invece sposta il ponte, non c'è paragone per quanto costano queste opere rispetto ai costi del ponte. Ma dico i trasporti per non dire tutte le altre parole che solitamente vengono portate come promozione del ponte, lo sviluppo del sud, i posti di lavoro, il turismo, tutta una serie di stronzate che ci vengono propinate, ma che, come per tutte le altre opere che sono state realizzate, si sono sempre dimostrate dei bluff. Non sono soltanto, diciamo, questi motivi, ci sono state grandi manifestazioni, grande diciamo, partecipazione alle manifestazioni che hanno dimostrato la concretezza del nuovo ponte e il radicamento sul territorio, tanto da portare la regione Calabria ad uscire dalla stretta di Messina, una cosa che abbiamo salutato con successo quel 23 dicembre che ricordava Santino, e che oggi il nuovo governatore, il mio caro concittadino Peppe Scopellini, la prima cosa che ha fatto da governatore è stato appunto quello di rilanciare la Calabria nella stretta di Messina, e addirittura ha manifestato l'intento di aumentare la quota di capitale sociale. Quindi, mentre la Calabria, lo leggete su tutti i giornali, non ha i soldi per supportare il debito e la sanità, la Calabria rilancia e aumenta la quota di capitale nella stretta di Messina. Il problema rispetto a questa movimentazione, purtroppo l'abbiamo vista il 23 dicembre. Che cosa è successo il 23 dicembre? Appunto con la morte del compagno Franco Nistico, che in una manifestazione assolutamente militarizzata, una città, una cosa mai vista per un movimento che si è sempre dimostrato pacifico, manifestazioni sempre festose, partecipate alla cittadinanza, un bel giorno in Villa San Giovanni ci ritroviamo con tutte le forze, mancavano forse solo i pompieri, mancava solo l'esercito, c'erano i carabinieri, guardia di finanza, polizia, c'erano gli elicotteri, c'erano le motovedette, la guardia ecozona, c'erano tutti quanti per una manifestazione che si aspettavano di devastare Villa, eccetera eccetera, e una persona si sente male sul palco, e con tutto questo ingente sistema di sicurezza mancava solamente, purtroppo mancava un'ambulanza. Ma questo non tanto per rivendicare questo dramma, ma per farvi capire che cos'è oggi gli interessi che ci stanno attorno a quest'opera, e la volontà appunto di andare avanti nei cantieri. Non dico di realizzare il ponte, perché penso che è una cosa ormai acclarata che il ponte per il letto, non dico per che non per, chissà, no, per le tecnologie che ci sono oggi conosciute, e per quello che è il progetto attuale, che non è un progetto esecutivo, ma un progetto ancora, diciamo, preliminare, il ponte non si può fare. Ma questo non significa che non c'è la volontà di aprire i cantieri, non c'è la volontà di devastare quei territori, non c'è la volontà di drenare i pochi fondi pubblici che sono rimasti. Quindi che non si vada avanti col progetto ponte, che è questo progetto ponte, non i piloni come li immaginiamo, che ci fanno vedere. Il ponte non è nient'altro che un'enorme colla speculativa, un'enorme fonte di denaro pubblico per incassare, per andare nelle tasche dei padrini, per andare nelle tasche delle multinazionali. Non è certamente l'opera che ci dicono, ma su questo progetto loro vogliono andare avanti, hanno tutti gli interessi per farlo, lo vogliono fare senza avere opposizione davanti. Quindi quella manifestazione, quella militarizzazione del territorio, il clima di tensione che hanno creato, non dimentichiamo che sono andati a casa di tutti i millesi, dirgli di chiudersi, di barricarsi dentro casa perché sarebbero arrivate orde di black bloc che avrebbero rubato addirittura dentro le case. Quindi questa criminalizzazione del movimento, questa tutta questa diciamo intimidazione alle persone che si avvicinano è la chiara manifestazione che su quest'opera vogliono andare avanti. Che fare? Certo, il ponte per noi è stato sempre il simbolo di una logica perversa, una logica che vuole i territori del sud venduti, non appunto per risolvere delle emergenze. Noi siamo qui a Lamezia e in questi giorni si sta parlando di una centrale a biomasse qui da realizzare qui vicino, eppure la Calabria esporta energia, di biomasse non ce ne sono, e a Reggio si sta rilanciando l'idea della centrale a carbone, dell'ennesimo rigassificatore, cioè, perché dico questo? Perché ormai questi territori sono, questi territori e queste emergenze create ad arte sono usate per non per risolvere i problemi nostri, che lo sappiamo quali sono problemi di lavoro, l'emigrazione che torna ad essere un problema per i giovani calabresi, che ormai la maggior parte sono costretti nuovamente ad emigrare, c'è il problema della devastazione, c'è il problema dei trasporti, cioè noi per venire qui alla Lamezia siamo stati costretti a venire col treno perché abbiamo questo abominio della Salerno-Reggio Calabria, dei cantieri, delle devastazioni ambientali allucinanti che stanno provocando. C'è un tratto, quello di Scilla, che è chiuso al traffico per l'ennesima frana, questa volta un ambasso di 8 metri che si è staccato, e per fortuna non passava nessuno, se no sarebbe stata l'ennesima tragedia. Forse quindi i calabresi, quando finiranno i lavori e si renderanno conto che stanno subendo tutto questo, solamente perché la Salerno-Reggio Calabria non era un'autostrada a norma per quelle che sono le normative europee, quindi non si poteva pagare il pedaggio. Ci hanno parlato della terza corsia, però stanno facendo tutto questo per portarci finalmente a pagare il pedaggio per la Salerno-Reggio Calabria. Non so se alla fine di questi lavori saremo così contenti per quello che stiamo vivendo. Però, ripeto, dietro tutto quello che ci propinano, non ci sono gli interessi dei calabresi, o meglio, c'è un interesse di una parte dei calabresi, quello appunto dell'andrangheta, quello appunto dei padrini del ponte, delle lobby che ci stanno, eccetera, eccetera. Quindi c'è la necessità di un riragionamento, di metterci insieme tutti quanti come calabresi che hanno veramente l'interesse di difendere questa terra e di immaginare un futuro diverso. Di ragionare insieme, di rilanciare, attorno a parole d'ordine, sicuramente il no al ponte è il primo, perché il ponte è quello che oggi rappresenta nella maniera più drammatica e più violenta è appunto questa logica di devastazione. Però dobbiamo veramente metterci insieme a ragionare, perché se non ci mettiamo noi a farlo, per questa terra non ci sarà futuro, sarà una colonia per i grandi imprenditori, ma non ci sarà futuro nostro. Io chiuderei qui, anche perché credo che sia più importante sentire Antonio oggi, però appunto l'invito e l'appello che faccio è di... Il ponte non è solamente una questione di Villa, di Reggio, di Messina, il ponte è una questione per tutta la Calabria, per tutta la Sicilia, ma per tutto il Meridione, e per quello che rappresenta deve essere una battaglia per tutti i calabresi. Allora, buonasera a tutti e ringrazio gli amici di Lamezia per l'invito e per l'opportunità di presentare questo che deve essere soltanto uno strumento, è soltanto uno strumento per riflettere, per discutere. Ringrazio Beppe Marro, Ettore Ponte per l'accompagnamento e soprattutto anche per utilizzare questo strumento, secondo me, per quello che deve essere utilizzato, cioè di riporre il problema del ponte come centrale, strategico nella mobilitazione, la lotta non soltanto del Mezzogiorno. Guardate che da quando circola soltanto su internet o su Facebook, perché chiaramente la stampa nazionale, immaginate la Gazzetta del Sud, che è uno dei principali panini del ponte, lo troverete poi nelle pagine per capire quanto sia fondamentale le scelte editoriali di questo quotidiano. Beh, non abbiamo avuto spazio, però da quando il tantan personale e Facebook eccetera presenta questo libro, obiettivamente vi dico che continuamente arrivano inviti dalle parti più a sud del nostro paese, perché dalle valli alpine, dalla Sardegna, in Puglia, eccetera, si ritiene che il ponte è veramente strategico non soltanto per quest'area, ma è veramente, viene assunto come il modello più barbaro e il modello più lesivo di quelli che sono i reali bisogni del territorio, di quello che può essere veramente un modello alternativo di pensare all'economia e allo sviluppo. Ed è pertanto paradossale che viviamo una fase di debolezza come movimento di opposizione, nonostante oggi nazionalmente ci si renda conto che bisogna combattere veramente questa battaglia del ponte, perché i padrini del ponte non sono dei padrini, quello che abbiamo sempre pensato, quello che la stampa ci ha fatto pensare, cioè tutte le opere pubbliche. Sappiamo benissimo che se si fanno in un'area ad alta densità mafiosa, chiaramente l'area dello Stretto di Messina, è chiaro che nel momento in cui apri un cantiere, sia un'opera pubblica sia un'opera privata, ti arrivano e ti chiedono il pizzo. Questo è normale e fisiologico. Beh, abbiamo cercato di lavorare per dimostrare, credo che questo è stato percepito nazionalmente, che dietro il ponte non ci sono soltanto gli interessi delle cosche delle Librine, delle cosche di Cosa Nostra, che si sono preparate a dovere per questa operazione. Guardate che perlomeno sono 30-35 anni che le organizzazioni criminali locali pensano al ponte sullo Stretto di Messina. La guerra di mafia, la guerra di 'Ndrangheta combattuta nel Regino a fine anni 70 aveva principalmente come obiettivo la spartizione dei capitali che sarebbero arrivati col cosiddetto pacchetto Reggio. Il pacchetto Reggio aveva uno degli assi centrali, la prospettiva del ponte sullo Stretto di Messina, e stiamo parlando di una guerra che ha causato una strage efferata, decine e decine di morti, e l'uso di autobombe, l'uso della strage come modello di guerra. E guardate che la pace imposta non a livello locale, perché arrivarono i grossi rappresentanti di 'Ndrangheta e di Cosa Nostra direttamente al Nord America, principalmente dal Canada, dove c'era una grossa presenza migratoria di siciliani e di calabresi che si erano già localizzati e che gestivano buona parte dei traffici. Ebbene, arrivarono a Reggio a imporre la pace alle varie librerie locali, proprio perché era impensabile che si potesse continuare a fare la guerra, non di cui sarebbe arrivato una quantità spaventosa di soldi. E non è casuale che poi, 30 anni dopo, sono le stesse organizzazioni canadesi, cioè le stesse organizzazioni mafiose, draghettiste, trapiantatesi in Canada, che pensano, intervengono per partecipare direttamente alla gara sul ponte, alla gara per la scelta del general contractor del ponte sullo Stretto di Messina, e intervengono direttamente promettendo agli interlocutori saranno la società Stretto di Messina, direttamente alcune delle società, delle grandi società di costruzioni internazionali e italiane che parteciparono alla gara per il general contractor, e direttamente a pezzi del governo, l'allora governo Berlusconi, proponendosi come il soggetto privato che può garantire quella percentuale di finanziamento per la realizzazione del ponte sullo Stretto. Sappiamo benissimo che il ponte è teoricamente finanziato soltanto un 15-18%, dovrebbe essere finanziato con soldi pubblici, tutto il resto dovrebbe essere cercato, individuato nel mercato. Ora, non esiste un mercato disponibile a rischiare 5.000 milioni di euro per un'opera che dà redditività zero, che non produce assolutamente reddito. Eppure c'è stato un pezzo importante che si è proposto, sapendo anche di rischiare denaro. Questo pezzo erano esattamente queste organizzazioni criminali trapiantate in Nord America, principalmente in Canada, che sono quelle che tra l'altro gestiscono ormai una situazione di oligopolio grandi traffici di droghe e di armi, e beh, sono stati gli unici a rendersi disponibili a offrire questa somma di denaro. E non perché, ripeto, sono convinti da poterci guadagnare parecchi soldi, anche loro sanno benissimo che il ponte è un'operazione a perdere dal punto di vista finanziario ed economico. Però hanno colto i messaggi politici che sono stati lanciati dai vari governi che sono succeduti in questo paese e che hanno proposto il modello ponte come unica alternativa di sviluppo, l'unico modello di sviluppo per il mezzogiorno d'Italia, hanno colto il messaggio politico. Non ci dimentichiamo una trasmissione di Sciuscia, mi sembra nel 2000-2001, quando l'allora presidente della società Stretto di Messina, oggi presidente onorario della società Stretto di Messina, nonché direttore da 45 anni, credo, della Gazzetta del Sud, ebbe l'ardire di dichiarare che se la mafia è in grado di realizzare il ponte sullo Stretto di Messina, ben venga la mafia, lanciando un messaggio politico preciso, cioè che chiunque viene a farci il ponte sullo stretto, noi siamo disponibili a dare non più di un saluto, la nostra disponibilità ad accoglierlo. Ebbene, Cosa Nostra, la Cosa Nostra transnazionale, non parliamo delle endrine locali, cioè dei pecorai che gestiscono la movimentazione terra e che gestiranno la movimentazione terra per il ponte, non mi riferisco a chi imporrà la guardiania ai cantieri, non mi riferisco a chi garantirà, fornirà il cemento, il calcestruzzi o l'acciaio per costruire il ponte sullo stretto. Parliamo delle grandi organizzazioni criminali, quelli che gestiscono quotidianamente milioni di dollari e che trasferiscono milioni di dollari sui grandi mercati finanziari, cioè quelli che decidono esattamente le sorti dell'umanità, perché di questo stiamo parlando. Ebbene, hanno colto questo messaggio, hanno colto un messaggio politico preciso, perché questa ottava meraviglia del mondo, questa grande piramide che verrà costruita, se sarà costruita, sicuramente darà fama ai posteri, sicuramente avrà un valore simbolico che potrà essere tramandato. Non è un caso che il ponte vuole essere, cioè oggi pezzi del governo sperano di poter dedicare futuro ponte sullo stretto a Bettino Craxi, per renderlo immortale, più di quanto è stato reso immortale dalla stampa di regime, dimenticando che non morì perché fu fatto morire all'estero, non morì perché era una persona che non si è potuta confrontare con la giustizia ed è scappato all'estero. Berlusconi spera di poter essere lui ai posteri, essere tramandato come ponte Berlusconi. Bene, Cosa Nostra ha captato, ha percepito il valore simbolico del ponte sullo stretto e si propone come il grande unico soggetto finanziatore dell'opera. C'è un passaggio che riportiamo nel libro che secondo me è emblematico e che conferma quello che sto dicendo, che voi sapete che c'è stata una cosiddetta operazione Brooklyn circa 4-5 anni fa. Forse non lo sapete, non per colpa vostra perché siete ignoranti, ma perché la stampa italiana si è guardata bene a dire che c'è stata un'inchiesta che ha dimostrato la partecipazione diretta di un'impresa di mafia alla gara di appalto sul ponte sullo stretto, non per vincerla, ma per entrare in contatto, ripeto, con la Stretto di Messina, per entrare in contatto con le società vere, le società di costruzione importanti, per entrare in contatto con pezzi del governo. Ebbene, c'è stata un'inchiesta che ha dimostrato questo, e all'interno di questa inchiesta uno che faceva la prestanome, che era un ingegnere che tra l'altro aveva avuto grossi appalti in Canada, ma nato a Oppito Lamertina, che faceva la prestanome per questi soggetti, che in una telefonata dice al suo interlocutore: quando faremo il ponte sullo stretto, perché noi faremo il ponte sullo stretto, noi riusciremo a far tornare lui in questione è Don Vito Rizzuto, rappresentante di Cosa Nostra, del clan Bolano, esattamente il clan principale di New York, personaggio discendente di persone che sono andate via dalla provincia di Agrigento, legate al clan Contrera Caruana, che per intenderci è uno dei principali clan che gestisce i traffici di cocaina a livello internazionale. E tornare lui, perché finalmente tornerà lui nell'area dello stretto, perché il ponte servirà a dare una legittimità politica a quella Cosa Nostra che ha perso la faccia dopo le stragi efferate del 92-93, che ha perso di credibilità, che ha perso di consenso sociale, ma che può riconquistare il consenso sociale, che può conquistare un'immagine politica se riesce a fare questa grande opera, questa grande bellezza che dovrebbe far passare alla storia. Allora, ci rendiamo conto di chi sta dietro questa operazione, ma tra i padrini del ponte c'è un altro soggetto che mi suggeriva Santino di ricordare, che non è un soggetto secondario. Sempre all'interno di questa inchiesta, che tra l'altro voi non lo sapete perché il quotidiano che purtroppo leggiamo e che ci fa da ponte culturale, che è la Gazzetta del Sud alle due sponde dello Stretto, si è guardato bene a ricordare, si è conclusa con la condanna appena una quindicina di giorni fa. Ebbene, la difesa di questo personaggio, gli avvocati di questo personaggio, hanno cercato di dimostrare che lui non faceva da prestanome di Cosa Nostra, che non aveva bisogno di utilizzare il denaro delle grandi transnazionali mafiose, perché lui aveva come interlocutore un certo personaggio dell'Arabia Saudita. Questo personaggio non è un personaggio secondario, ma è un personaggio che abbiamo ricostruito essere l'entourage della famiglia regnante dell'Arabia Saudita. Per cui ci rendiamo conto che abbiamo un altro grande filone che guarda il ponte sullo Stretto sempre per le stesse motivazioni, perché ne coglie l'immagine simbolica, perché ne coglie l'immagine, la valenza politica, e soprattutto perché ha la possibilità di immettere sui mercati finanziari i cosiddetti petrodollari, cioè questa quantità enorme che viene prodotta giorno per giorno col modello unico dei trasporti, guarda caso che è il modello unico del ponte sullo Stretto, cioè il trasporto sgommato, l'uso spropositato della benzina, con quello che significa dal punto di vista dell'impatto ambientale, ma quello che significa soprattutto dal punto di vista dell'impatto sociale ed economico. Non dimentichiamoci che le guerre che si sono combattute negli ultimi 40 anni sono tutte guerre per riappropriarsi di un bene che è il petrolio, e di cui i sauditi sono tra i principali responsabili. Ebbene, cosa abbiamo scoperto, cosa abbiamo cercato di dimostrare all'interno di questo libro? Che viviamo in un paradosso, cioè veramente allucinante. Allora, il ponte lo facciamo con i soldi di Cosa Nostra, la cosa non ci preoccupa, anzi, ben venga la mafia se riesce a farci il ponte e a portare i soldi. Se poi a portare i soldi, a costruire il ponte, sono coloro che direttamente e indirettamente hanno causato lo sviluppo di movimenti fondamentalisti islamici, che poi nella loro degenerazione hanno causato quello che viene rappresentato da Occidente come il terrorismo internazionale, che poi sono quei soggetti che direttamente e indirettamente hanno dato copertura a quelli che l'11 settembre 2001, partendo dall'Arabia Saudita, hanno bombardato le Torri Gemelle, creando quello che è stato un grande shock internazionale e generando due conflitti che ancora viviamo in Iraq, in Afghanistan, creando tra l'altro, incentivando conflitti in tutto il continente africano, creando questo grande mostro che è Bin Laden, che pare che sia imprendibile, ma che pare sia... Per questo non ci preoccupa. Questi sovrani dell'Arabia Saudita sono quelli che, attraverso una corrente di pensiero filosofico islamico che è il wahhabismo, hanno promosso negli ultimi 40-50 anni l'organizzazione di sette islamiche radicali, diffondendole a livello internazionale. Questa monarchia in particolare ha un interlocutore economico, storico, a cui tra l'altro ha ceduto la gestione delle moschee, che ha ceduto la gestione dei pellegrinaggi alla Mecca, che sapete sono fondamentali nella vita di un islamico. Un islamico almeno una volta nella vita deve andare alla Mecca. Dietro questo pellegrinaggio immaginate che c'è un business economico spaventoso, perché gli islamici non si spostano soltanto dall'Arabia Saudita, si spostano da tutti i paesi del mondo, generando fenomeni che dal punto di vista economico sono aerei, sono hotel. Ebbene, sapete qual è questo gruppo che gestisce da 40 anni i pellegrinaggi alla Mecca per conto dei sovrani dell'Arabia Saudita? Si chiama Bin Laden Group, che è il gruppo familiare di Bin Laden. Bin Laden, il ricercato terrorista cattivo che, a cui noi facciamo la guerra e che ci costa giorno per giorno milioni e milioni di miliardi, sino a qualche anno fa era azionista del gruppo della famiglia, tra l'altro un gruppo che è uno dei principali gruppi di costruzione di tutto il Medio Oriente, che costruisce, ha costruito, pensate, anche le basi militari per gli Stati Uniti in Arabia Saudita prima, durante e dopo la prima guerra del Golfo, pensate. Quando bisognava fare la guerra ai cattivi dell'Unione Sovietica che avevano occupato l'Afghanistan, l'Arabia Saudita aveva un interlocutore particolare che era esattamente Osama Bin Laden, che era anche legatissimo ai servizi segreti americani, proprio perché doveva fare la guerra ai nemici sovietici. Sino al... abbiamo cercato di mostrare che anche dopo l'11 settembre 2001 i servizi segreti dell'Arabia Saudita hanno continuato ad avere rapporti diretti con Osama Bin Laden. Come abbiamo cercato di dimostrare che i rapporti tra lui e la sua famiglia non si sono mai interrotti, d'altro non è che l'abbiamo dimostrato noi. Cioè, quello straordinario regista statunitense che ha fatto un video su questo, che ha dimostrato le responsabilità dell'Arabia Saudita, dei servizi segreti dell'Arabia Saudita e della Bush Connection e dell'Arabian Connection, dei legami strettissimi tra la famiglia Bin Laden, tra la famiglia Bush e tra la famiglia Arabia Saudita, dimostrando che poi in questi scenari pecunia non vuole del denaro va benissimo. Ebbene, cosa c'entra tutto questo discorso di questo stretto? C'entra tantissimo perché, primo, uno di questi personaggi direttamente era intenzionato a finanziare il ponte sullo Stretto. La Procura della Repubblica di Roma, che ha processato, e il Tribunale che ha poi condannato questo calabro canadese che faceva da rappresentante delle cosche, ha concluso dicendo: i soldi di Cosa Nostra c'erano, Cosa Nostra Internazionale era intenzionata a lavorare sul ponte, a finanziare il ponte, ma non escludiamo che contemporaneamente c'era l'interesse per cui la difesa di questo personaggio ha detto in parte la verità. Cioè realmente c'era questo interlocutore, per cui c'era questo sovrano che è responsabile di tutte queste operazioni. Ma la cosa più paradossale di questa vicenda è che appena una settimana fa, per dirvi che non abbiamo scritto farneticazioni, non abbiamo cercato di dipingere, di inventarci la grande Spectre dove praticamente dietro il ponte sullo stretto ci sono quelli che hanno bombardato o che hanno comunque collaborato e permesso l'abbattimento delle Torri Gemelle, creando questa guerra continua e permanente che ci colpisce direttamente anche nell'anima e oltre che nelle tasche. Ebbene, appena una settimana fa è stato firmato un accordo strategico, una partnership strategica dal punto di vista finanziario ed economico, che vede, sapete come, chi sono i due partner? Uno è il Bin Laden Group, cioè questo gruppo di famiglia che continua a essere il principale finanziatore o uno dei principali finanziatori delle organizzazioni radicali islamiche. Dall'altra parte il gruppo in pregiro, ossia il capofila General Contractor, che voi conoscete benissimo perché state pagando in termini di territorio devastato, in termini di... vi è stato colpito il vostro diritto della mobilità perché la autostrada non si può utilizzare, con tutti i dissesti causati da questa espansione, da questo allargamento dell'autostrada. Sapete come è General Contractor del Ponte sullo Stretto di Messina? Sapete, Rubegni, che è l'amministratore delegato, l'ha giustificato dicendo che una partner, che non è una partnership così solo, ma che veramente in pregiro punta tantissimo a questa parte. Beh, posso immaginare che cosa punta. Punta ad aprirsi in pregiro, già da diversi anni lavora in quest'area, che è l'area del mondo arabo, attraverso il Bin Laden Group, che è il principale gruppo finanziario, cioè il gruppo di costruzione dell'Arabia Saudita, vuole sicuramente entrare in questo mercato. Ma il Bin Laden Group sicuramente può essere il partner o un partner strategico per trovare quei capitali che in pregiro deve mettere sul mercato per continuare la progettazione e la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. E allora, ci rendiamo conto che veramente viviamo in un mondo paradossale, cioè viviamo in un mondo in cui chi oggi avvelena, chi oggi uccide milioni di persone, chi oggi genera le guerre, chi oggi condanna alle tossicodipendenze per poi creare il proibizionismo, imporre il proibizionismo nei paesi produttori e nei paesi di consumo, chi oggi decide le sorti dell'umanità spostando su internet i capitali finanziari, eccetera, si trova a convivere, si trova a condividere la progettazione di quest'opera che giustamente è stata definita da Beppe Marra inutile, devastante, impattante, criminale e criminogena. Questo abbiamo voluto dimostrare in questo libro, che il problema dei padrini del ponte non è, perché sarebbe in fondo il ponte non si differenzierebbe da altre opere realizzate, che purtroppo verranno realizzate in quest'area, e non sarebbe una giustificazione per dire no al ponte, perché se no, anche quando facciamo le scuole, quando facciamo gli ospedali, arriva Cosa Nostra, arriva la 'Ndrangheta e impone il vizio. Questo non giustificherebbe che allora non si facciano le grandi opere dove servono e quando servono. Ma qui ci troviamo di fronte all'opera veramente che raccoglie in sé il simbolismo peggiore delle devastazioni dei territori, della devastazione dell'ambiente, delle guerre, dei crimini che vengono perpetuati oggi a nord, a sud, a est, come a ovest, di chi impone giorno per giorno la fame a milioni, a miliardi di persone, di chi impone un modello neoliberista selvaggio, dove il denaro viene sottratto ai poveri per rientrare nei grandi canali finanziari. Quello che stiamo vivendo oggi in Grecia e che vivremo domani in Portogallo e che vivremo dopodomani in Italia, perché di questo stiamo parlando, perché non è una bolla speculativa quella che stiamo vivendo oggi. Noi stiamo vivendo oggi la contraddizione reale di questo modello capitalistico selvaggio che trasferisce risorse, che ruba continuamente risorse naturali e risorse finanziarie alla gente per poi fare... Beh, continuare oggi di matematica. Ma se oggi faccio sparire 1.000 miliardi, ma dove sono finiti i 1.000 miliardi che sono stati fatti sparire dalle casse della Grecia? Dove sono se poi si volatilizzano nei mercati finanziari? Questo è il modello oggi imposto da queste transnazionali che oggi ci impone su questo territorio questo modello del ponte sullo stretto di Messina, che né occupazione creerà né sviluppo creerà, se non l'arricchimento selvaggio, farà volatilizzare ulteriormente le risorse di questo territorio. Per concludere, noi ci troviamo di fronte veramente a una sfida epocale. Per questo credo che dobbiamo imparare da quello che è stato colto dai Notab, che è stato colto dai Nodal Molin, che quelle che possono sembrare delle battaglie localistiche non sono battaglie localistiche, proprio perché dietro la base del Dal Molin c'è un modello, che è il modello depredatorio delle risorse, cioè il modello di chi impone giorno per giorno le guerre. Dietro la Notab, dietro questo modello della cosiddetta alta velocità, c'è di chi vuole veramente distruggere i territori per garantire soltanto la possibilità di spostamento delle merci e non degli esseri umani, a cui oggi viene continuamente impedito con i grandi muri che abbiamo creato nel sud del Mediterraneo, che creiamo con i paesi africani, che creiamo col Medio Oriente, e impediamo di fatto la mobilità delle persone. Oggi il ponte lo creiamo esattamente con questo modello funzionale a questo modello di distruzione del territorio, il ponte. Ma il ponte dovrebbe essere tutta la cosa contraria, cioè il ponte dovrebbe essere, viene presentato come l'anello di congiunzione tra il nord, tra l'Europa e il Mediterraneo, dovrebbe essere quello che ci collega, che proietta Berlino al continente africano. Ma se oggi stiamo impedendo con le armi, affondando le navi di persone disperate che abbiamo affamato, che sono questi soggetti che hanno continuato ad affamare con questo modello neoliberista, e li stiamo affondando il Mediterraneo, e poi vogliamo costruire un ponte di queste dimensioni nel Mediterraneo, quando non siamo in grado di dare ospitalità a chi abbiamo messo su una strada e che abbiamo affamato. Pensiamo, questo è il paradosso, secondo me, sul ponte sullo stretto. Chiudo su un appello. Questo è soltanto uno strumento, è uno strumento che tra l'altro è costato anni di fatica, ma che è rimasto 3 anni nel cassetto perché non ci sono stati editori nel Mezzogiorno d'Italia disponibili a pubblicare. Sapete chi ha pubblicato questo libro? L'ha pubblicato una cooperativa di Roma, una cooperativa di giornalisti, Edizione Allegre, a cui va il ringraziamento, penso, non soltanto mio personale, perché tra l'altro, cioè dico, questo libro non ci guadagniamo niente se non querele, che abbiamo qui un avvocato, sa quanto costano in termini penali, in termini civili. Ma dobbiamo, penso dovrebbe avere un riconoscimento, perché paradossalmente sono i compagni di Roma che colgono l'importanza di capire quanto è strategica quest'opera, quanto rappresenta un modello devastante, non soltanto per il territorio del Mezzogiorno, ma di quanto hanno colto simbolicamente il loro valore. A loro dobbiamo dare un ringraziamento, perché dall'altro lo vedete a pagina 3 di questo libro, c'è scritto che questo libro non c'ha né il copyleft né il copyright. Cioè, la cooperativa chiede a tutti che le informazioni, le valutazioni, i messaggi che ci siano circolino il più possibile. Non c'è divieto per utilizzare parzialmente o totalmente questo libro, purché non venga fatto chiaramente a fini di lucro, perché quello che è importante è che venga, che possa circolare. È importante che le cose che ho detto brevemente, ma vi invito sinceramente a leggerlo, perché scoprirete che dietro il ponte sullo stretto c'è per esempio un personaggio che ha fatto la storia negativamente di questi 30 anni. Avete visto sicuramente la puntata di Sant'Olio, il nome di Marcello Del Dutri è uscito costantemente in quella trasmissione, ma non è uscita perché è il mafioso che è stato condannato in primo grado e che spero verrà condannato anche in secondo grado, ma perché rappresenta l'anello di congiunzione tra quella che è la vera e propria borghesia mafiosa, cioè tra tutti quei soggetti che oggi dominano la politica, dominano l'economia, dominano pezzi dello Stato, dominano pezzi dei servizi segreti, pezzi dell'arma dei carabinieri. Il nome di Marcello Del Dutri in questo libro corre come una costante, perché corre come la persona che ha la capacità di prevedere un mese prima che si aprono le buste chi vincerà. Intercettato, due persone hanno abbiamo saputo da Marcello Del Dutri che vincerà in preciso. Marcello Del Dutri, che è il personaggio che arriva nel 92-93, quando si preparano le stragi, quando si fanno le stragi in Sicilia, quando si prepara la trattativa per le poste stragi, che viaggia, non mi ricordo, 52-53 volte nella rotta Milano-Catania, e guarda caso va sempre, particolarmente, nel cuore della provincia di Messina, Barcellona-Pozzo di Gotto, che probabilmente voi, forse al massimo, avete sentito nominare, ma che vi assicuro scoprirete in questo libro quanto è centrale la storia d'Italia, non soltanto quanto sia centrale nella scelta del ponte sullo stretto di Messina. Come qui sono le cosche dei piromaghi, le cosche dei pesci che si spartiranno gli appalti, lì sono le cosche dei barcellonesi che si gestiranno i subappalti. Ma è a Barcellona che si fa un pezzo della storia d'Italia, perché è a Barcellona che si incontrano boss mafiosi, rappresentanti del mondo della politica, i ROS, pezzi dell'arma dei carabinieri, pezzi dei servizi segreti, per decidere il PM 92-93, e abbiamo capito, spero perlomeno la trasmissione di Sant'Olio, penso che sia servita qualche giorno fa a far capire a milioni di persone la partita che si è giocata, come si è costruita questa seconda repubblica sul sangue dei diritti dei lavoratori, sul sangue dei diritti dei precari, sul sangue dei diritti delle persone che vengono massacrate sulla piazza.